Amare noi stessi, prima conversazione. Pim. Essere in vostra compagnia ci riempie di gioia, e siamo infinitamente grati per poter conversare con voi. Amore incondizionato. Le vostre domande mi girano ancora nella mente. E quello che avete appena detto mi incuriosisce molto. Mi sembra che l'amore di cui parlate, e che ci invitate ad usare verso noi stessi, sia amore incondizionato. Incondizionato perché va usato in qualunque situazione, senza condizioni appunto. È facile amare noi stessi quando tutto va bene, quando ci sentiamo dire bravo, o quando abbiamo fatto qualcosa di buono. Molto meno facile è amare noi stessi quando le cose vanno male, quando gli altri ci criticano e ci giudicano, e soprattutto quando pensiamo che l'andare male delle cose sia legato al nostro agire, all'aver sbagliato, al non aver fatto abbastanza. È di amore incondizionato che parlate? Guide e maestri. Siamo felici di questa tua domanda, e te ne poniamo un'altra, sulla quale ti invitiamo a meditare. Pensi che qualsiasi altro tipo di amore, che non sia incondizionato, possa essere chiamato amore? Se non è incondizionato è certamente legato ad un bisogno, o ad una aspettativa personale, non è più libero di essere. L'amore di cui parliamo è uno, ed è sempre incondizionato, altrimenti non è amore. L'amore di cui parliamo è l'unico amore che è riconosciuto dal vostro cuore, io interiore. È la radice energetica originaria che ci accomuna tutti. Siamo esseri divini e la divinità di cui parliamo è amore incondizionato. Il vostro io interiore, quella parte di voi non incarnata nel vostro corpo fisico, vi vede unicamente attraverso gli occhi di questo amore completo, immenso, grande e infinito. E vi vede attraverso gli occhi dell'amore incondizionato in qualsiasi istante del vostro percorso su Gaia, sempre. C'è solo amore in questo universo. Nel momento in cui scegliete di credere alla voce dell'ego, che altro non è che una miscela di credenze altrui, invece che alla voce del vostro io interiore, negate la vostra vera natura. Senza la vostra vera natura come guida primaria, unica e necessaria, la vera felicità è davvero impossibile, e nulla di esterno potrà mai saziare la sete di chi è in cerca di se stesso. Siete esseri meravigliosi. Siete illimitati. Siete parte dell'uno. Le stesse caratteristiche dell'uno, sorgente energetica, tutto ciò che è, Dio, chiamatelo come meglio credete, vivono in ognuno di voi, senza esclusione. In questo universo completamente inclusivo tutto è. Agli occhi dell'amore incondizionato non esiste, sono stato buono o sono stato cattivo. L'amore incondizionato non giudica, non critica, non condanna, non punisce. Quindi la risposta alla tua domanda è, senza alcun dubbio. Amare se stessi è amarsi incondizionatamente, sempre e comunque, senza esclusioni, senza condizioni. Pim. Perché avete deciso di iniziare le vostre conversazioni con questo argomento? Guide e maestri. Perché l'amare noi stessi è la nostra radice energetica principale. Perché la nostra buona energia dipende dalla nostra capacità di amarci senza condizioni. Perché se ci amiamo incondizionatamente saremo portati a realizzare la nostra vita seguendo i parametri del nostro cuore. Perché se ci amiamo incondizionatamente saremo in accordo vibrazionale con la nostra nota originaria, e le azioni che ne seguiranno saranno fondate su una base di servizio verso noi stessi e gli altri, un servizio di amore e felicità. Pim. Parlate di io interiore, di accordo vibrazionale con la nostra nota originaria, di potere creativo. Sono tutti concetti per noi un po' strani, davvero poco usati nel linguaggio di tutti i giorni. Da qui nasce la mia curiosità e il mio desiderio di capire meglio. Che intendete con il vostro io interiore, quella parte di voi non incarnata nel vostro corpo fisico? Che cosa è l'io interiore? Che vuol dire che è fuori di noi? E dove sarebbe? E che ruolo ha? Guide e maestri. Anima. Su Gaia molti definiscono l'io interiore con il termine anima. Se questa parola vi risuona più semplice, usatela senz'altro. Fate attenzione al significato del termine anima, la parte di voi che vi dà vita, che vi anima, che vi muove. L'anima è comune a tutti, ed è eterna. Innanzitutto provate a mettere da parte per un momento i termini dentro e fuori. Quando siete in uno stato di disincarnazione, come noi in questo ora, la fisicità non esiste più. Tempo e spazio spariscono, e la solidità è inesistente. Questo è lo stato naturale prima dell'entrata nel corpo. Prima di incarnarvi anche voi siete stati coscienza pura e illimitata, presente ovunque nello stesso ora. Pim. Ciò che dite non è proprio facile da capire. Guide e maestri. Per la vostra mente è praticamente impossibile razionalizzare un concetto di questo tipo. Vi dovete affidare alla vostra intuizione universale. La mente è un meraviglioso strumento, appartenente alla dimensione spazio-tempo, che ci serve su Gaia, ma limitata alle funzioni di pensiero razionale ed organizzativo. È un aiuto pratico in questo passaggio Terra. Non è nelle funzioni della mente percepire, sentire, arrivare a quella comprensione interiore che non ha niente di controllabile e che non può essere spiegata razionalmente. Quello è il territorio dell'intuizione universale. L'equilibrio, come sempre, è importante. È un grande dono che facciamo a noi stessi quando ci apriamo ad accogliere e lavorare sia con la mente che con l'intuizione universale, senza giudicare l'una o l'altra. Pim. Mente razionale e intuizione universale. Che rapporto c'è tra la mente razionale e ciò che voi chiamate intuizione universale? Guide e maestri. Come abbiamo detto, la mente razionale è uno strumento che appartiene totalmente alla dimensione di Gaia, alla dimensione spazio-tempo, molto abile nel materializzare, nel fare piani, nell'organizzare. La mente razionale ha un pensiero lineare, basato su causa ed effetto, su un inizio e una fine. Una sequenza logica di eventi, e un desiderio molto grande di prevedere un certo risultato. È certamente utile, ma completamente subordinata all'intuizione universale, alla guida della vostra nota originaria, e all'assistenza illimitata dell'Uno. Il primo passo è, amare noi stessi, riconoscere la nostra vera natura di creatori, stabilire l'accordo con la nostra nota originaria, risuonare con ciò che ci rende gioiosi e felici, lasciare che l'intuizione universale ci guidi verso una visione chiara di come desideriamo creare noi stessi in relazione con questa dimensione spazio-tempo. Il passo successivo è, usare la nostra mente razionale per manifestare concretamente sul pianeta. La mente razionale ha un ruolo finale, mentre tutto il resto, ciò che avviene prima a livello di frequenza, di suono, è il motore, la causa prima. Amare noi stessi, riconoscere la nostra vera natura di creatori, e stabilire l'accordo con la nostra nota originaria, ci porta anche in dono una mente razionale efficiente, motivata e divertita. La mente razionale ama pianificare, ma non sa come gioire. La gioia è un'estensione del nostro accordo con l'Uno. Chiarito questo, torniamo a ciò che siete prima dell'incarnazione. Abbiamo detto che siete energia pura, coscienza universale, parte dell'Uno, nell'Uno, con l'Uno. Quando siete energia pura prendete la decisione di incarnare parte della vostra nota originaria in questa dimensione, con lo scopo di espandervi e di giocare all'essere creatori. Pim. Parte? Questo è ancora più difficile da capire. Guide e maestri. Quando usiamo il termine parte non vogliamo separare o dividere in alcun modo ciò che è inseparabile e indivisibile. Vogliamo rendere l'idea che ciò di cui state facendo esperienza su questo pianeta è semplicemente una sfaccettatura del totale che siete. Solo una sfaccettatura. La maggior parte della vostra energia, l'io interiore, che possiamo anche definire come la nostra nota originaria, vive, vibra, come coscienza pura e illimitata dell'uno, con l'uno, nell'uno. Il che vuol dire che è l'uno, che questa sfaccettatura di voi stessi è l'uno che si è manifestato in materia. Pim. È davvero molto strano pensare che qui su Gaia è presente solo una parte di noi, della nostra nota originaria o io interiore, come li chiamate voi. Non solo, se capisco bene voi dite anche che la parte di noi che rimane in cielo, che è poi la maggior parte della nostra energia, è l'uno, con l'uno, nell'uno. Che differenza c'è tra la parte di noi su Gaia e quella che è l'uno, con l'uno, nell'uno? Guide e maestri. Quando scendiamo su Gaia, quando siamo incarnati in questa dimensione, la differenza essenziale è la presenza dell'oblio. Con l'oblio dimentichiamo la nostra vera natura, e la memoria della nostra nota originaria scompare. Pim. Oblio. Che cosa è l'oblio? Guide e maestri. L'oblio non è un qualcosa di fisico, è un velo energetico. Chiamatelo pure il velo tra le due realtà. È ciò che ci permette di vedere la dualità necessaria all'esperienza di noi stessi. È ciò che ci permette di fare esperienza dell'illusione della dimensione di Gaia. Senza l'oblio e con il ricordo completo della nostra nota originaria, la dualità scomparirebbe completamente. Ogni particolare di questa dimensione, ogni viso, ogni animale, ogni pianta, ogni granello di sabbia, verrebbe visto per ciò che realmente è, una versione di noi stessi, le infinite sfaccettature dell'uno. Pim. Vorrei capire meglio come agisce l'oblio. Guide e maestri. Al momento della nascita, quando facciamo l'entrata finale nel nostro corpo fisico, l'oblio è presente, ma non completo. Un bambino appena nato ha ancora una connessione fortissima con l'uno, e per questo dorme la maggior parte del tempo, a meno che non abbia deciso di arrivare in circostanze terrene molto intense. Con la crescita, l'oblio continuerà ad intensificarsi, e a velocità diverse a seconda della storia che ci siamo prescelti. L'oblio si intensifica quando le condizioni che viviamo su Gaia sono di un certo tipo, solitamente ardue, e rallenta quando le condizioni sono più facili ed armoniche. Pim. Perché? Guide e maestri. Perché quando le condizioni della situazione terrena in cui giungiamo, o che affrontiamo, sono difficili, la disarmonia produce una interferenza potente, che è in disaccordo con la nostra nota originaria. Ciò causa un'accelerazione dell'oblio, potremmo vederla in maniera più semplice come confusione nella percezione del suono primario con il quale scendiamo. Al contrario, quando ci incarniamo in una situazione terrena più tranquilla, il senso di armonia interiore della nostra nota originaria rimane più percettibile e l'oblio si forma in tempi più lunghi. Pim. Avete detto che con l'oblio dimentichiamo la nostra vera natura, e la memoria della nostra nota originaria scompare. Perché? Guide e maestri. Perché se l'oblio non esistesse sarebbe praticamente inutile essere su questa dimensione in cerca di espansione e divertimento creativo. Quindi potremmo dire che per creare quest'illusione geniale chiamata Gaia, e tutti i vari universi e dimensioni, è stato necessario creare un senso di separazione transitorio fondato sui cinque sensi, sullo spazio e sul tempo. Pim. Perché è stato necessario creare un senso di separazione transitorio? Guide e maestri. La separazione è necessaria per poterci confrontare, riconoscere, relazionare, concentrare su qualcosa al di fuori di noi. Pensate alla coniugazione del verbo essere. Io sono, tu sei, egli è. Eccetera. Un piccolo esempio che rende perfettamente l'idea di come siamo in grado di metterci a confronto con una realtà esterna a noi stessi, e quindi di riconoscerci come individui e creare in accordo con le nostre preferenze. Naturalmente il tutto è illusorio, ma certamente molto efficace nella nostra espansione e nell'espansione del tutto. Pim. Ma allora, che cosa è davvero quello che voi chiamate nota originaria o io interiore? E quale è il ruolo dell'io interiore quando siamo incarnati su Gaia? Io interiore. Guide e maestri. L'io interiore siete voi in assenza dell'oblio, connessi a tutto ciò che è, al di fuori dello spazio e del tempo. L'io interiore siete voi che guidate voi stessi nella creazione della vostra espansione gioiosa. La funzione dell'io interiore è quella di chiamarvi continuamente verso ciò che è in accordo con la vostra nota, con i desideri più profondi, con il vostro potere di creatori. L'io interiore è la voce al di sopra di tutte le altre voci. Non potete confonderla con nient'altro. Vi parlerà unicamente da un punto di amore incondizionato, di gioia, di abbondanza e di gratitudine. Pim. Mi sembra che le espressioni che usate, io interiore, anima, chi siete veramente, la vostra vera essenza, la vostra nota originaria, esprimano in definitiva lo stesso concetto. È così? Guide e maestri. È così. Abbiamo iniziato la nostra conversazione dicendo che siamo qui per facilitare il ricordo di chi siete veramente, e per mostrarvi l'essenza vera dentro ognuno di voi, la vostra nota originaria alla quale potete accordarvi in ogni ora. Immaginate un concerto, voi siete gli strumenti che sono in accordo o disaccordo con una nota originaria, uguale per tutti, che è l'uno. Le sinfonie, le composizioni sono infinite, ciò che conta è l'accordo con quell'origine che ci guida in direzione del nostro cuore, e quindi dell'amore incondizionato. Ci piace usare il paragone con la musica, perché il linguaggio musicale è universale, e quindi più comprensibile di un linguaggio fondato su frequenze, vibrazioni, allineamento. Naturalmente la musica è frequenza e vibrazione, e l'accordo è allineamento. Ma a livello di linguaggio tutti comprendono istantaneamente la differenza tra uno strumento scordato e uno accordato. Pim. Anche a me piace il paragone con la musica. Spero possa aiutarmi a capire il tanto di nuovo di cui parlate. Vorrei fermarmi un momento. Una breve pausa per meditare su ciò di cui abbiamo conversato. Guide e maestri. Buona idea. Un passo alla volta. A piccoli passi. Un ottimo modo per crescere. Possiamo riprendere quando ti sentirai pronto. Ricorda che siamo sempre presenti, qui e ora, in ogni ora. È stata una bella conversazione. C'è solo amore ed espansione gioiosa. Amare noi stessi, seconda conversazione. Pim. Mi piacerebbe approfondire un altro punto. Avete detto che nel momento in cui scegliamo di credere alla voce dell'ego, che altro non è che una miscela di credenze altrui, invece che alla voce del nostro io interiore, neghiamo la nostra vera natura. Avete appena parlato dell'io interiore. La mia curiosità ora riguarda l'ego. Che cosa è l'ego? Perché dite che l'ego altro non è che una miscela di credenze altrui? E poi, se è una miscela di credenze altrui, l'ego dovrebbe nascere solo quando entriamo in contatto con gli altri, e quindi, appena nati, quando ancora non siamo in contatto con altri, dovremmo essere senza ego. È così? E come si forma l'ego? Guide e maestri. L'ego è la vostra personalità, e contiene tratti che vi servono positivamente e tratti che vi rendono un disservizio. Nasciamo senza ego. Provate a pensare ad un computer nuovo, completamente privo di informazioni, senza dati. Il nuovo computer è pronto a lavorare, ed ha un sistema operativo che rispecchia la nostra natura, di creatori da una parte, con una partizione iniziale del 99%, di oblio dall'altra, con una partizione iniziale dell'1%. Queste partizioni ci consentono di fare esperienza su Gaia. L'ego è l'accumulo di tutta una serie di documenti, le esperienze, che cominciamo a scaricare, a registrare, ad inserire nel computer, quando viviamo su Gaia, attraverso le nostre relazioni, l'esposizione e l'osservazione sul pianeta. Pim. Per seguire il vostro esempio, se capisco bene state dicendo che quando nasciamo siamo come un computer nuovo, e che il computer ha ottime caratteristiche, perché per il 99% è la nostra nota originaria e per l'1% oblio. Mi sembra che ci sia un problema però. Le esperienze che viviamo su Gaia sono spesso negative, e quindi inevitabilmente la memoria del computer si riempie di negatività. E mi sembra anche che non abbiamo molti mezzi con cui difendere quella che chiamate la nota originaria. È così? Guide e maestri. Non proprio. Il computer ha installato un antivirus molto sofisticato, che si attiva ogni qualvolta un'interferenza in disaccordo con la partizione principale, la partizione del 99%, della nostra nota originaria, di noi creatori, cerca di entrare. Quando ciò avviene, l'antivirus produce sensazioni di malessere, che rappresentano un campanello di allarme che richiama la nostra attenzione. Pim. Da quello che dite si potrebbe dedurre che l'antivirus dovrebbe difenderci dall'entrata di dati negativi. Eppure molto presto, malgrado l'antivirus, la partizione del 99% si riduce e quella dell'1% si allarga. Perché? Guide e maestri. Se ci viene detto migliaia di volte che siamo stupidi, o maleducati, o cattivi, e il nostro sistema antivirus ci avverte ogni volta della bugia che si racchiude in queste affermazioni, noi ci ribelliamo la prima volta, la seconda o la terza. Probabilmente dopo un po', consciamente o inconsciamente, avremo formato una convinzione che siamo stupidi, maleducati o cattivi. Ed ecco che il file stupido, maleducato o cattivo appare nel nostro computer e la partizione dell'1% si allarga. Quanto è grande e importante quel file? Quanti megabyte, gigabyte, eccetera? Quanto lo usiamo, consciamente o inconsciamente? Quante volte ci clicchiamo sopra? È così che comincia a formarsi l'ego. Pim. Che succede quando viviamo esperienze positive, in armonia con la nostra nota originaria? Queste esperienze incidono sul nostro ego? Guide e maestri. Certamente. L'ego contiene sia ciò che vi provoca malessere che ciò che vi provoca benessere. È importante sottolineare che l'ego può anche racchiudere file che ci servono benissimo, e che sono in armonia con la partizione principale del nostro sistema operativo, quella del 99% che rispecchia la nostra nota originaria, la nostra natura di creatori. Sei intelligente, generoso e gentile. Questo tipo di file è sicuramente in accordo con la nostra nota originaria, e quindi l'antivirus non viene attivato. Ora fate attenzione, il computer contiene un altro strumento molto utile, e sta a voi attivarlo. È lo strumento che contiene tutti i vostri bookmarks, la barra dei preferiti del vostro computer, ciò che vi piace di più e che vi fa sentire bene. È così che potete partecipare alla formazione della vostra personalità, ego, in una direzione che vi serve positivamente. Quando cliccate sui bookmarks che risuonano in armonia con la vostra nota originaria, rafforzate, attraverso l'uso della vostra mente, tutti gli aspetti gradevoli della vostra personalità terrena. Quanto spesso cliccate su queste preferenze? Quanto sono importanti per voi? Quanto tempo trascorrete a navigare sugli aspetti positivi del vostro ego? Pim. Che relazione c'è tra l'ego e quella che chiamate la nostra nota originaria o io interiore? Guide e maestri. Fate attenzione alle vostre emozioni. Al di là di questo accumulo di caratteristiche, al di là dell'ego, c'è il vostro io interiore, la vostra anima, la vostra nota originaria, che è semplicemente amore incondizionato. Il vostro ego, la vostra personalità, può essere guidata dal vostro io interiore su Gaia, cliccando sugli aspetti che vi assistono nella vostra espansione gioiosa, e mettendo nel cestino quelli che vi trattengono dal crescere, dall'espandervi gioiosamente. Il vostro antivirus non smetterà mai di esaminare il vostro intero sistema e di avvertirvi di ciò che è stato riconosciuto come alieno alla vostra nota originaria. La vostra attenzione è assolutamente necessaria nel guardare i file. I messaggi che ricevete provocano le vostre risposte emotive, che possono essere di pace, serenità, gioia, ed espansione, o invece di sconforto, scontentezza, e depressione. Il lavoro gioia che potete fare è di ripetere e coltivare i messaggi positivi, e di mettere da parte quelli negativi. Scegliete consapevolmente pensieri che portano felicità. Il non cliccare più su quelli che vi provocano sensazioni di sconforto, scontentezza, o depressione, quando già li conoscete molto bene, e li avete esaminati e riesaminati, richiederà attenzione e costanza. Ma soprattutto richiederà la decisione cosciente e consapevole del muovere immediatamente la vostra attenzione dal messaggio che non è in armonia con il vostro suono originario, e che stona se usate le vostre orecchie celesti, all'icona che vi mette a disposizione tutti i bookmark più interessanti e piacevoli che ci sono, con la possibilità infinita di aggiungerne di più e di più. Tutto dipende da quanto tempo decidete di dedicare a quell'attività del vostro computer che è sempre piena di novità, o ai vecchi file che conoscete a memoria e che sapete esattamente a che tipo di risultato finale vi porteranno. L'ego vi può servire o vi può bloccare. La scelta è sempre vostra. Pim. Avete iniziato questa conversazione affermando che senza l'amore verso noi stessi non ci permetteremo mai di essere veramente felici. E l'avete fortemente sottolineato dicendo, queste non sono parole vuote. Mi sembra che la felicità sia molto importante nella vostra visione. È così? Guide e maestri. Ti poniamo la domanda, cosa è la felicità per te? Cosa, quando ci pensi, ti fa dire un sì forte e chiaro, un sì che va oltre la razionalità, oltre il ragionamento, un sì che, ancora una volta, è in accordo, in armonia, con la vibrazione del cuore? È solo quando cominciamo ad amarci incondizionatamente che ci riallineiamo con la nostra nota originaria. Ed è solo quando cominciamo ad amarci incondizionatamente che la vibrazione di noi in questo ora terreno e la vibrazione del nostro io interiore, o anima, sono in accordo, come uno strumento musicale. La sensazione di benessere è interna, cominciamo ad ascoltare e riconoscere la musica, la nostra sinfonia, quella con la quale siamo scesi sul pianeta, la nostra vera voce, la nostra verità profonda. Riconosciamo la nostra chiamata interiore, quella vera, non quella che gli altri hanno cercato o stanno cercando di farci credere che sia. Ed è solo quella particolare sinfonia che ci renderà veramente felici. E la chiave per il ricordo è amarsi incondizionatamente. Pim. Cosa significa amare noi stessi? Ci avete invitato a chiederci, cosa significa amare noi stessi? La domanda mi sembra importante, perché siamo abituati a pensare che per migliorarci dobbiamo vedere i nostri limiti, i nostri difetti, dobbiamo criticarci, giudicarci. Tutto fuorché amare noi stessi. Siamo quindi abituati a pensare che se ci amiamo così come siamo, incondizionatamente, non ci facciamo un buon servizio, perché limitiamo la nostra possibilità di miglioramento. Credo di capire che la vostra visione è molto diversa. Il vostro invito è di essere profondamente consapevoli del significato dell'amare noi stessi, e di capire le conseguenze della sua assenza, o della sua presenza, nel nostro quadro energetico. E ci avete detto che l'amore verso noi stessi è al centro di tutto. State dicendo che se siamo capaci di amarci siamo collegati all'energia e ci sentiamo in espansione, gioiosi e felici, e che quando non ci amiamo ci stacchiamo dalla radice e perdiamo energia, quindi siamo spenti, tristi, depressi, sfiduciati, e così via? State dicendo che ci miglioriamo e progrediamo solo se ci amiamo e quindi siamo collegati all'energia, e che se invece ci giudichiamo e critichiamo perdiamo energia e quindi non progrediamo? È così? Guide e maestri. È esattamente come stai dicendo. Comprendiamo che sia un modo di pensare che rivoluziona il credo su cui la maggior parte delle società umane su Gaia sono fondate, ma è arrivato l'ora di ricordare e rivoluzionare il pensiero. Un semplice esercizio di consapevolezza ti darà la misura, a livello interiore, di ciò che è già dentro di te. Immagina il tuo bambino interiore. Immaginalo ad un'età che ti è facile ricordare, in una situazione, reale o no, nella quale secondo le idee di chi ti sta intorno, padre, madre, scuola, ti sei comportato male o sei stato cattivo. Che tipo di reazione il tuo bambino interiore desidera da parte dell'autorità in questione? Che tipo di parole? Che tipo di emozione nelle parole? Che tipo di guida? Presta attenzione, stiamo chiedendoti di sentire il desiderio di te bambino, non l'aspettativa. La risposta che il tuo bambino ti darà, il desiderio di come vorrebbe essere trattato in quella situazione specifica, ti porterà grande chiarezza. La seconda fase dell'esercizio è di trovarti nella stessa situazione, ma questa volta la reazione dell'autorità in questione è quella che il bambino si aspettava. Ancora una volta, osserva la reazione e sentine le emozioni. Se necessario, scrivi ciò che ti ha colpito maggiormente. Un esercizio semplice ma molto indicativo. Una piccola nota: il desiderio è la voce del cuore, l'aspettativa è la voce della mente razionale. Pim. L'esercizio che mi invitate a fare richiede che io immagini il mio bambino interiore e scopra le sue reazioni in situazioni tra loro molto diverse. Il bambino interiore è un concetto che noi su Gaia non usiamo molto. Se capisco bene, tutti abbiamo un bambino interiore dentro di noi, e nel mio caso è il Pim bambino, con tutte le sue emozioni, gioie, paure. So che quando siamo bambini, assorbiamo moltissimo e le forti emozioni ci rimangono dentro formando quello che chiamiamo inconscio. È questo il bambino interiore con cui mi invitate a fare l'esercizio? Guide e maestri. La risposta è sì. Questa è la parte di voi stessi con la quale vi invitiamo a collaborare. Dopo l'esercizio potremo continuare. È stata una bella conversazione. C'è solo amore ed espansione gioiosa. L'esercizio con il bambino interiore. Rincontrare noi stessi. Pim. Ho fatto l'esercizio con il mio bambino interiore, Pim bambino, e l'ho trovato molto interessante. Ci sono nella mia mente tanti ricordi di episodi in cui, secondo il pensare comune e i canoni della società a cui appartengo, mi sono comportato male. Quando ho immaginato che la reazione dei miei genitori fosse quella da me desiderata, essere compreso e non giudicato e sgridato, vedere che i miei genitori non ignoravano l'episodio, ma me ne parlavano con calma e amorevolmente, per farmi capire le possibili conseguenze ed i rischi, essere guidato, anche con un no terapeutico, ma con un'energia accogliente e sorridente, e ho chiesto al mio bambino interiore come stava, mi sono sentito rispondere che era molto felice, e che aveva desiderio di imparare e progredire. Quando invece ho immaginato la reazione che mi aspettavo e da me temuta, essere ignorato, essere criticato e giudicato, essere sgridato e punito, e ho chiesto al mio bambino interiore come stava, mi sono sentito rispondere che era molto triste e arrabbiato, e che non aveva voglia di far niente, certamente nessuna voglia di seguire gli ordini di chi gli diceva che doveva essere in un certo modo. Da una parte quindi ho visto gioia e desiderio di progredire. Dall'altra rabbia, tristezza e nessuna energia per capire e migliorare. Guide e maestri. Come vedi, ritorniamo sempre alla nostra radice energetica originaria, ovvero l'amarci incondizionatamente. Quando veniamo criticati e giudicati, anche se con buone intenzioni, ciò che sentiamo dentro è una sensazione di grande malessere. Non siamo cattivi, non siamo inopportuni, non vogliamo essere puniti, desideriamo unicamente che chi ci è di fronte ci parli dal cuore, e che da quella energia ci direzioni verso scelte che sono in accordo energetico con la nostra nota originaria. Nell'esercizio che hai appena fatto, la risposta amorevole da parte dei tuoi genitori ha creato un'armonizzazione con il cuore del tuo bambino interiore, un senso di chiarezza, e il desiderio di crescita e di miglioramento. In realtà la risposta armonica da parte dei tuoi genitori non ha fatto altro che facilitare il ritrovamento del tuo accordo interiore, e una volta che quell'accordo è ristabilito, la guida ti giunge direttamente dal tuo io interiore. Come l'esercizio ti ha mostrato chiaramente, l'opposto non è possibile. La risposta punitiva dei tuoi genitori non potrebbe mai facilitare un'armonizzazione interiore del bambino. È stato un buon esercizio. C'è solo amore ed espansione gioiosa. Amare noi stessi, terza conversazione. Il bambino interiore. Pim. Vorrei capire meglio l'importanza pratica del lavoro che possiamo fare con quello che chiamate il bambino interiore. Guide e maestri. Dal punto di vista energetico non c'è alcuna parte di voi stessi che abbia più potere del vostro bambino interiore. Non c'è logica nel suo pensare. Assolutamente nessuna logica. Tutto ciò che ha assorbito nei primi 5 anni dalla sua discesa su Gaia è entrato a livello inconscio, quindi profondo, e torna al comando del vostro essere adulto ogni qualvolta vi troviate in una situazione che ricorda, a livello di frequenza, le esperienze che ha vissuto. Pim. Se capisco bene, state dicendo che il bambino interiore torna al comando quando la situazione che l'adulto vive ricorda esperienze che ha vissuto da bambino. È come se l'adulto perdesse il controllo della situazione e a prendere le decisioni ci fosse il bambino, che certamente è impaurito e non ha l'esperienza e la saggezza dell'adulto. Potete aiutarci a capire meglio con un esempio? Guide e maestri. Immagina un bambino che fa esperienza del divorzio dei suoi genitori. Naturalmente è solo un esempio, perché non tutti reagiscono allo stesso modo nelle stesse circostanze. Immagina ora che il padre vada via di casa e che sia incapace di mantenere contatti stabili con il figlio per motivi che non hanno nulla a che fare con il bambino, ma che si basano su dinamiche relative alla relazione con la moglie. Molto probabilmente, il bambino registrerà dentro di sé uno di questi messaggi: non sono bravo o buono abbastanza, altrimenti mio padre sarebbe rimasto. Non valgo niente, altrimenti mio padre mi telefonerebbe più spesso. C'è qualcosa che non va in me, altrimenti mio padre vorrebbe trascorrere più tempo insieme. Se fossi stato più buono o più bravo o più compiacente, la mia famiglia sarebbe ancora unita. Queste idee possono nascere da due diverse situazioni: o ci sentiamo direttamente accusati dai nostri genitori, oppure, e questa è solitamente la situazione più frequente, da bambini amiamo i nostri genitori così incondizionatamente che non riusciamo a percepirne alcun difetto e quindi, per giustificarne il comportamento, ci convinciamo che noi stessi siamo la ragione delle loro decisioni. Ci diciamo: è colpa mia. Spesso nel tempo continuiamo a ricreare queste stesse situazioni. Siamo diventati adulti, abbiamo ora relazioni con persone diverse, viviamo in luoghi diversi, ma l'essenza energetica è la medesima. Ricreiamo le stesse situazioni, spesso senza rendercene conto, perché il motore vibrazionale, la convinzione, è a livello inconscio. Nell'esempio che abbiamo fatto, quel bambino, ora adulto, porterà con sé delle dinamiche, delle convinzioni a livello di pensiero, che saranno visibili nelle sue relazioni interpersonali e nelle esperienze della sua vita. Probabilmente lascerà prima di essere lasciato, o verrà abbandonato perché troppo bisognoso di rassicurazione. E continuerà a ricreare tali circostanze finché ne diventerà cosciente come adulto e le trasformerà. L'energia che crea, che è al comando, in questo caso è la parte dell'adulto che ha vissuto da bambino quell'esperienza di rigetto. Quindi è corretto affermare che quella parte di sé, il bambino interiore, è il motore dietro la creazione dell'esperienza stessa. Pim. Come possiamo renderci conto del fatto che il bambino interiore è al comando, che è lui il motore che crea l'esperienza vissuta dall'adulto? Guide e maestri. Le cose che vi fanno più paura, le reazioni che sentite più irrazionali e più difficili da cambiare, ciò che si continua a ripetere e ripresentare, ciò che vi è difficile da identificare, ciò che la logica ha difficoltà a mettere a posto. Tutti questi tipi di meccanismi e convinzioni energetiche sono un segnale a cui prestare attenzione, e sono, di solito, il risultato della presenza, nel vostro ora presente, del vostro bambino interiore. Ciò che potete vedere ora con il pensiero logico, perché adulti e perché in un altro spazio di evoluzione energetica, non lo potevate vedere quando eravate molto piccoli. Avete assorbito come spugne. Vi siete ribellati con il pianto, con quei movimenti energetici che chiamate capricci. Vi siete ribellati andando nella vostra immaginazione, vi siete ribellati nel gioco, ma alla fine la spugna ha assorbito. Ciò che è stato assorbito è in profondità, e quindi non facile da raggiungere con la logica e la razionalità, ma è assolutamente accessibile, ancora una volta, dal vostro io interiore. Pim. Cosa possiamo fare quando cogliamo il segnale della presenza del bambino interiore, e del fatto che la situazione è fuori controllo perché il bambino ha preso il posto dell'adulto ed è al comando? Guide e maestri. Potete farvi una domanda importante, che è questa. Vi amate abbastanza da darvi il permesso di sentire a livello conscio ciò che quella parte del vostro passaggio su Gaia, il vostro bambino interiore, vuole che sentiate in pienezza completa? Pim. Ancora una volta, per aiutarci a capire meglio, potrebbe essere utile un esempio. Guide e maestri. Immagina che il bambino dell'esempio è ora adulto, e si è sposato e separato 3 volte. In tutti e 3 i casi non è stato facile per lui mantenere un rapporto positivo e continuativo con i suoi figli. L'adulto logicamente si chiede il perché, e probabilmente il suo ego, personalità, troverà scuse e giustificazioni logiche agli eventi, scuse e giustificazioni basate sull'osservazione esterna dell'esperienza. Il motore vero del tutto si trova però a livello inconscio, e l'inconscio può essere portato a livello conscio dalla vostra disponibilità a sapere e sentire. E allora ritorniamo a ciò che ora potete chiedervi per capire e trasformare. Sono aperto e disponibile a sentire, a sapere, a ricevere informazioni sul perché continuo a ricreare, o a ritrovarmi in questa situazione? Chiedo assistenza e guida al mio io interiore per comprendere questi meccanismi, in modo che li possa guardare e trasformare? Il vostro bambino interiore, quella parte del vostro essere energetico su Gaia, vuole sentirsi al sicuro e tranquillo, e vuole che gli siano date le condizioni per il suo benessere esattamente come le desidera. Il vostro bambino interiore non si fermerà finché si sentirà in una situazione di instabilità. Quindi il nostro invito è di fermarvi e ascoltare quella parte del vostro essere. Niente logica, unicamente la vostra apertura a sentire. Pim. Quello che vorrei capire ora è come possiamo tranquillizzare il bambino interiore e ritrovare la calma, la pace, la saggezza dell'adulto. Guide e maestri. Il vostro bambino interiore è ancora dentro di voi, sempre a vostra disposizione. Immaginatevi piccoli e cercate di parlarvi. Chiedete a quella parte di voi di cosa ha bisogno per sentirsi felice, sereno, al sicuro e in pace. Qualunque sia la risposta, create quella situazione nella vostra immaginazione. Visualizzate il vostro bambino interiore circondato dalle circostanze da lui preferite. Pim. Come lo possiamo fare? Guide e maestri. Per tornare al nostro esempio, l'adulto divorziato 3 volte potrebbe immaginare il suo bambino interiore in una situazione nella quale i suoi genitori non si sono mai lasciati e vivono felici, e quindi vedersi circondato da amore, gioia e serenità. Oppure potrebbe scegliere di avere genitori separati, ma di avere comunque una relazione armoniosa, positiva e continuativa con il padre. Il tipo di visualizzazione o di immaginazione dipende dalle richieste del bambino interiore e dai suoi desideri. Potreste stupirvi delle reazioni, della voce di quella parte di voi. Non vogliamo aggiungere altro per non influenzare il vostro lavoro gioia. Figli. Pim. Pensando all'esercizio con il mio bambino interiore mi è venuto in mente che forse potremmo applicare la regola dell'amore incondizionato anche agli altri, in particolare ai nostri figli. È una buona idea? Guide e maestri. L'amore incondizionato è il suono della nostra nota originaria. Se è vero che ognuno di voi desidera essere amato incondizionatamente, è altrettanto vero che chiunque altro entra nella vostra esperienza terrena, compresi naturalmente i vostri figli, ha lo stesso desiderio di fondo, e questo perché ognuno di noi è amore incondizionato. Fatta questa premessa, vogliamo aggiungere che l'amore incondizionato, nella sua purezza e completezza, può giungerci unicamente dalla nostra sorgente interiore, dal nostro io espanso o anima, da quella parte di noi non incarnata sul pianeta e quindi non soggetta all'oblio. Nessun altro è capace di offrirvi quella interezza vibrazionale. E infatti non a caso ognuno di voi è sceso con quella sorgente dentro. Siete scesi con la capacità di amarvi illimitatamente e di sentirvi amati allo stesso modo dalla vostra nota originaria. Voi e la sorgente siete inseparabili nell'eternità. Non dovete cercarla in niente o nessuno. La portate in voi. Chiarito questo, per rispondere alla tua domanda, possiamo dire che è certamente una buona idea che i genitori applichino la regola dell'amore incondizionato anche ai loro figli. L'ideale sarebbe che i genitori facilitassero il ricordo della nota originaria dei loro figli, o almeno che non confondessero la connessione con il loro io interiore, che li guida in direzione dei loro desideri più profondi. Idealmente i genitori dovrebbero portare l'attenzione dei figli sul loro potere intrinseco, sulle infinite possibilità, sul fatto che possono creare qualunque cosa desiderano profondamente, sulla loro abilità di essere felici e gioiosi, sull'amare loro stessi completamente. Pim. Un ruolo di questo genere presuppone genitori risvegliati, o che risuonano pienamente con la nota originaria, per usare una vostra espressione. Guide e maestri. Naturalmente c'è la realtà di Gaia, e nuovamente torniamo sul fatto che questa è una dimensione con una varietà di vibrazioni notevoli. Pim. Cosa intendete per varietà di vibrazioni notevoli? Guide e maestri. I pensieri creano il nostro sentire. I nostri pensieri sono energia, e ci sono tante forme di energia, con tante differenti vibrazioni. Ci possiamo rendere conto di questo da come i pensieri ci fanno sentire. Un pensiero dolce e gioioso avrà un effetto completamente diverso da uno rabbioso e vendicativo. Questo, se ci permettete l'espressione molto terrena, è un dato di fatto. Sentire una sensazione di dolcezza e gioia è certamente un'esperienza molto più piacevole del sentire una sensazione di rabbia e vendetta. Perché abbiamo messo tra virgolette il termine sentire? Perché questo sentire è qualcosa che non vedete con gli occhi, non ascoltate con le vostre orecchie, non odorate con il vostro naso, non toccate con le vostre mani e non assaporate con il vostro gusto. Ma è certamente un dato di fatto che sentite, e che siete capaci di distinguerne le varianti e l'intensità. Siete capaci di descrivere a parole ciò che sentite. Potete parlarne con un amico, potete scrivere sul vostro diario le sensazioni e la loro intensità. Le sensazioni primarie, amore e paura. Quel sentire al di là dei vostri 5 sensi terreni, è energia sottile, vibrazione, onda. I vostri pensieri sono una forma di tale energia che crea una reazione a livello di sensazione. Queste sensazioni possono essere descritte con mille parole, e queste mille parole possono essere condensate e semplificate in due parole primarie, amore e paura. Nel rapporto con i vostri figli, e non solo con loro, la direzione primaria dovrebbe tendere verso l'amore. Quando la paura si presenta, la direzione da seguire dovrebbe essere quella di percepirla e trasformarla attraverso una visione basata, ancora una volta, sul cuore. Tim. Vorrei capire meglio come tutto questo si applica al rapporto tra genitori e figli. Guide e maestri. Nel momento in cui voi siete arrivati ai vostri genitori, e nel momento in cui i vostri figli sono arrivati a voi genitori, siete e sono atterrati in un certo territorio energetico, che ha contribuito alla formazione di certi pensieri e convinzioni, in loro e in voi. La prospettiva è che tutti hanno fatto del loro meglio in quella situazione particolare, a seconda del loro livello di evoluzione e consapevolezza. Certamente non c'è stata perfezione nell'essenza dei pensieri, delle convinzioni e degli insegnamenti offerti, ma la perfezione non è cibo per questa dimensione, e la perfezione non è cibo per la crescita e per l'espansione. Lo stesso amore incondizionato non è perfetto, nel senso che cambia e continua ad espandersi sempre di più. Il rapporto tra genitori e figli è basato su un accordo nato prima dell'incarnazione di entrambi, e sul tipo di evoluzione ed esperienza che si desidera creare. Una volta sul pianeta ciò che si sviluppa è crescita energetica o evoluzione spirituale, comunque sia, o per meglio dire qualunque siano le nostre esperienze terrene. Pim. Comunque sia? Qualunque siano le nostre esperienze terrene? Cosa volete dire? Guide e maestri. Che non importa il tipo di esperienza che voi e i vostri figli avrete su Gaia, perché l'espansione spirituale è garantita, in quanto è la conseguenza dell'incarnazione stessa. La guida e protezione dello Spirito Eterno. Questo concetto è essenziale per comprendere che nonostante ci sia un istinto naturale e amorevole di protezione e guida nei confronti dei vostri figli, c'è una guida e una protezione al di sopra della vostra, ed è infallibile. Ci riferiamo alla guida e alla protezione dello Spirito Eterno, e quindi, anche se le circostanze terrene, secondo i canoni della percezione umana, non sembreranno le più favorevoli, l'evoluzione spirituale sarà sempre e comunque magnifica ed eterna. Pim. Essere genitori, guide terrene. Capisco che sia un'ottima cosa sapere che c'è un disegno superiore che guida e protegge, e che questa guida e protezione è al di sopra di quella dei genitori ed è infallibile. Mi piacerebbe capire meglio però cosa possono fare i genitori, praticamente, per essere buone guide. Guide e maestri. Comprendiamo la tua domanda, perché certamente è naturale che i genitori abbiano un istinto di protezione. Ciò che i genitori possono chiedersi nella guida dei figli è questo. Da che punto energetico sto proteggendo e guidando? Sto cercando di proteggere me stesso da tutto ciò che potrebbe andare storto? Se la risposta alla seconda domanda è sì, allora sto mettendo la mia attenzione, i miei pensieri, su ciò che non desidero, e lo sto accentuando. Pim. Ancora una volta un esempio aiuterebbe a capire meglio. Guide e maestri. Un esempio potrebbe essere la richiesta da parte di mio figlio o figlia di partecipare a un'attività o a uno sport che io ritengo troppo azzardato. Se è così, dico no perché sto pensando a tutte le cose terribili che potrebbero accadere. Immagini disastrose, che sono troppo dolorose per me, anche solo da considerare. Il no in questo caso non sarà ricevuto benevolmente, ma verrà invece percepito come una costrizione basata su una paura che appartiene al genitore e non al figlio. I no di questo tipo producono di solito o una reazione di sfida, lo faccio lo stesso e non te lo dico, oppure di chiusura, mi rassegno. Altre domande che possono aiutarci e farci da guida nel rapporto con i nostri figli sono: riesco ad avere una conversazione dal cuore e quindi dalla mia nota originaria? Riesco a connettermi con il cuore e la nota originaria di mio figlio o figlia? La guida può essere chiara e ferma, e allo stesso tempo piena di amore. Sto offrendo direzione con amore o con paura? Sono consapevole del fatto che non ho il controllo finale sulla vita e sul destino di nessuno, compresi i miei figli? Sono capace di percepirli come i creatori potenti che sono? Sono capace di ascoltarli? Pim. Le punizioni sono utili? Capisco l'importanza dell'amore nella guida dei figli, ma mi viene in mente che a volte le punizioni possano essere salutari, perché fanno capire ciò che non è buono o ciò che è pericoloso. In questo senso credo che a volte anche la punizione possa svolgere un ruolo di guida. Che ne pensate? Guide e maestri. Le punizioni non creano espansione, ma chiusura. Ricorda l'esercizio che hai fatto con il tuo bambino interiore. Punire significa accusare e decidere la colpevolezza di qualcuno, e questo a livello energetico non crea espansione ma chiusura. Crea invece un desiderio di crescita e miglioramento, e non di chiusura. Sedersi con qualcuno e avere una conversazione basata sull'amore che ci unisce. Mettere in luce tutti gli aspetti meravigliosi di chi ci sta di fronte, anche se pochi in quell'istante. Creare una situazione energetica di fiducia. Guidare la conversazione nella direzione in cui chi, ai nostri occhi umani, ha sbagliato, o per meglio dire ha agito in disaccordo con la propria nota originaria, il proprio cuore, riesce a vederla dal suo punto di vista dell'amare se stesso. Portare gli occhi dell'io interiore nel dialogo. Sarete sorpresi nel vedere come le soluzioni positive prenderanno forma quando la vostra guida sarà basata non sul senso di colpa, ma sul desiderio di crescita. Guidate in accordo con il vostro cuore. Tornando al nostro esempio, se invece di basarvi sulla vostra paura personale vi sintonizzate con la verità che risiede nel vostro cuore, ossia l'amore, sarete capaci di fare due cose molto importanti. Per prima cosa, riuscirete a sentire se la richiesta di vostro figlio ha bisogno di essere amorevolmente reindirizzata su qualcosa di diverso, oppure no, quando guidate in accordo con il vostro cuore, invece della paura che chiude immediatamente tutte le porte, avrete accesso al vostro sesto senso. Per seconda cosa, una volta che avete ricevuto una risposta chiara, avrete la possibilità di comunicare la vostra opinione da un punto di calma, chiarezza e soprattutto amore. Nel caso in cui il vostro sesto senso vi abbia confermato un no amorevole, quel no verrà ricevuto in maniera completamente diversa. Anche se la reazione momentanea può essere, umanamente parlando, di frustrazione da parte di vostro figlio, il risultato a lungo termine e a livello inconscio porterà con sé un'impronta positiva e duratura. Detto questo, gli alti e bassi di Gaia esistono, e anzi ne sono la caratteristica. Quindi se come genitori ci arrabbiamo, ci arrabbiamo. Se puniamo, puniamo. Ma nel momento in cui la calma rientra nella nostra sfera energetica, proviamo a ritornarci sopra in maniera diversa, armonica. E la prossima volta che ci troviamo in una situazione simile possiamo provare a fermarci e aspettare un momento energetico migliore per trovare una soluzione più armonica. Vorremmo invitarvi a riflettere su un'ultima domanda. Considerate l'opinione dei vostri figli valida e degna di attenzione, o partite dal presupposto che sempre e comunque sapete e capite più e meglio di loro? Approfondiremo l'argomento genitori e figli nelle conversazioni su Gaia. Vorremmo infine dirvi che l'argomento genitori e figli potrà essere approfondito nelle conversazioni che faremo quando parleremo di Gaia, e delle esperienze che si incontrano durante la vita. Possiamo anticiparvi che i figli sono per i genitori un grande dono, e viceversa, perché attraverso la loro relazione si sviluppano mille opportunità di crescita ed espansione. È stata una bella conversazione. C'è solo amore, ed espansione gioiosa. Amare noi stessi, gran finale. Amatevi incondizionatamente. Pim. Da tutto quello che avete detto, mi sembra che amare noi stessi sia l'appello che ci rivolgete, e che sia la base da cui ci invitate a vivere ogni esperienza terrena, positiva o negativa. Guide e maestri. Fratello caro, ascolta queste frasi. Non siete mai giudicati, criticati o puniti. In questa creazione esiste solo amore. Siete espressione totale dell'uno, della sorgente del tutto, di Dio. Imparare ad amarvi incondizionatamente è il dono più grande che possiate farvi. Per amarvi incondizionatamente, lasciate andare tutto ciò che vi è stato insegnato che non contenga una nota amorevole. Quando vi amate veramente create una vibrazione di dolcezza, gioia, compassione, forza e bellezza che vi guida costantemente. La forza vitale è una diretta conseguenza dell'amore infinito che sentite dentro di voi, e per tutto ciò che è creazione. L'amore è semplice nella sua nota e instancabile nella sua espansione. Chi si ama incondizionatamente ha la capacità di percepire quello stesso amore, o la potenzialità di quello stesso amore, in tutti. Quando vi amate siete innamorati di voi, siete in voi, siete con voi, la storia d'amore che tutti cercano. Amarvi significa essere lì per voi stessi negli alti e nei bassi dell'onda terrena. Specialmente nei bassi. Amarvi significa ricreare il linguaggio con il quale parlate a voi stessi. Ricordate, l'amore non giudica, non critica, non punisce. L'amore ama. Ridere e sorridere sono espressioni di un cuore amorevole e gioioso. Questi sono solo alcuni pensieri legati a espressioni di amore verso se stessi. Abbiamo sentito un grande desiderio di trasmetterli per portare l'attenzione sull'importanza, ancora una volta, dell'amare se stessi. Queste nostre conversazioni si muovono da questa base fondamentale e necessaria. La base è il riconoscimento dell'amore immenso, della bellezza eterna, della luce infinita di ognuno di voi. La base è il riconoscere quanto siete amati, assistiti, guidati ed ascoltati, e di come l'amarvi incondizionatamente vi mette in diretta comunicazione con l'uno che vive in voi, in noi, in tutto. Anche solo l'intenzione di amarsi incondizionatamente apre la porta al ricordo della vostra vera natura, e a quel punto le possibilità diventano infinite. Non stiamo parlando di perfezione, ma semplicemente di una disponibilità a provare ad ascoltare quella voce sopra tutte le voci che in qualunque momento, alto o basso che sia, vi mostra la luce, la bellezza, l'eterna espansione del vostro essere. Stiamo parlando della disponibilità a provare ad ascoltare quella voce sopra le voci che vi parla solo in termini amorevoli, che vi porta chiarezza e vi riconduce, instancabilmente, nella direzione dei vostri desideri più profondi, quella voce che, non importa le scelte che fate o le esperienze che state vivendo, vi vedrà sempre e comunque attraverso gli occhi della vostra nota originaria, amore puro espressione dell'uno. Queste conversazioni giungono con lo scopo di ricordarvi che siete amore puro, immenso, incondizionato. Siete esseri meravigliosi con una capacità di amare che non conosce limiti. Questo amore è di voi, con voi, in voi. Quindi amatevi senza condizioni di alcun genere. Amatevi completamente. Amatevi gioiosamente. È stata una bella conversazione. C'è solo amore.